Capitolo 17. Angoscia a Hamley Hall. Se Molly pensava che la pace regnasse perpetua a Hamley Hall, si sbagliava di grosso. In casa c'era qualcosa di stonato e, cosa molto insolita, l'agitazione generale aveva stimolato un vincolo comune. Tutti i domestici occupavano il loro posto da anni e venivano informati da qualcuno della famiglia, oppure raccogliendo indizi dalle sciolte conversazioni che avevano luogo in loro presenza, di tutto ciò che accadeva al padrone, alla padrona o a uno dei due giovani signori. Chiunque di loro avrebbe potuto raccontare a Molly che il guaio che stava alla radice di tutto era la quantità di conti non pagati accumulati da Osborne a Cambridge e che, ora che non c'era più alcuna possibilità che gli ottenesse un titolo accademico, quelle spese si erano riversate sullo Squire. Ma Molly, sicura che Mrs. Hamley in persona le avrebbe comunicato tutto ciò che desiderava sapere, non incoraggiò confidenze da parte di nessun altro. Rimase colpita dal cambiamento nell'aspetto della signora non appena il suo sguardo cadde su di lei, che giaceva sul sofà del salotto oscurato, tutta vestita di un bianco che rivaleggiava con il suo viso esangue. Lo squire fece entrare Molly dicendo «Eccola finalmente!» e Molly non immaginava che i toni della sua voce potessero essere così variabili. L'inizio della frase fu pronunciato forte, con gioia, mentre le altre parole furono quasi inudibili. Egli aveva visto il pallore mortale sul volto della moglie. Non era per lui una cosa nuova o che gli si fosse presentata con gradualità, però gli causava sempre un rinnovato turbamento. Era una dolce e tranquilla giornata d'inverno. Ogni ramo e ogni virgulto degli alberi e degli arbusti scintillavano per le gocce di brina sciolte dal sole. Un pettirosso fece capolino su un cespuglio da grifoglio, fischiando allegro. Ma gli scuri erano chiusi e niente di tutto questo si poteva vedere dalle finestre della stanza di Mrs. Hamley. Tra lei e il caminetto era stato anche disposto un ampio parafuoco che nascondesse la vivacità delle fiamme. Mrs. Hamley allungò una mano verso Molly e la strinse, con l'altra si schermò gli occhi. «Non sta molto bene stamattina», disse lo squire scuotendo il capo. «Ma non temere, mia cara. Qui c'è la figlia del dottore, che è quasi brava come il dottore stesso. Hai preso la tua medicina? E il tuo brodo?» continuò, gironzolando in punta di piedi, ma pesantemente, sbirciando dentro ogni tazza e ogni bicchiere vuoto. Infine, tornò presso il divano, la guardò per un paio di minuti, la baciò teneramente e poi disse a Molly che le lasciava le sue cure. Come temendo le osservazioni o le domande della ragazza, Mrs. Hamley iniziò a sua volta una rapida sequela di interrogativi. «Adesso, cara mia, raccontami tutto. Non si tratta di violare una confidenza, perché io non ripeterò nulla e non sarò qui ancora a lungo. Come vanno le cose? La nuova mamma, la nuova organizzazione? Permettimi di aiutarti, se posso. Penso che se avessi avuto una figlia avrei potuto essere utile. Una madre non conosce mai i ragazzi. Ma descrivimi tutto quello che preferisci e che desideri. Non avere paura dei dettagli». Nonostante la sua scarsa esperienza di malattie, Molly percepì la febbrile irrequietezza di questo discorso e l'istinto, qualche altra sua dote, la spinsero a raccontare una lunga storia piena di particolari. Il giorno delle nozze, la permanenza a casa delle signorine Browning, il nuovo arredamento, Lady Harriet, eccetera. Il tutto narrato con una fluidità verbale che ebbe un effetto decisamente calmante su Mrs. Hamley, perché le fornì qualcosa a cui pensare, al di là delle sue immediate sofferenze. Molly però non parlò del proprio dolore né delle nuove relazioni domestiche. Mrs. Hamley lo notò. «E tu e Mrs. Gibson andate d'accordo?» «Non sempre», rispose Molly. «Sapete che non ci conoscevamo bene prima che ci mettessero a vivere insieme. Ma mi è piaciuto ciò che lo squire mi ha raccontato ieri sera. Era molto arrabbiato». Quella ferita non si era ancora rimarginata, ma Molly decise di tacere, spremendosi le meningi per trovare un diverso argomento di conversazione. «Capisco, Molly», disse Mrs. Hamley, «non vuoi parlare delle tue angosce, però forse potrebbe farti bene». «Non voglio», ammise Molly sottovoce, «e credo che neanche papà lo vorrebbe. E poi voi mi avete aiutata così tanto, voi e Mr. Roger Hamley. Penso spesso, spesso alle cose che mi diceva, mi sono molto utili e mi danno tanta forza». «Ah, Roger, sì, di lui ci si può fidare». «Oh, Molly, anch'io ho tanto da raccontarti. Solo non ora. Devo prendere la medicina e tentare di dormire. Brava ragazza, sei più forte di me e puoi cavartela senza compassione». Molly fu condotta in una stanza che non le era familiare. Ferriera, che l'accompagnò, le riferì che Mrs. Hamley non desiderava che i suoi sogni fossero disturbati, cosa che si sarebbe molto probabilmente verificata se lei avesse dormito nella sua solita camera. Nel pomeriggio Mrs. Hamley la mandò a chiamare e con la mancanza di reticenza tipica degli invalidi, e specialmente di coloro che soffrono di malattie lunghe e deprimenti per lo spirito, riferì a Molly i problemi e le frustrazioni della famiglia. Le chiese di sedersi su uno sgabellino accanto a sé e tenendole la mano e fissando i suoi occhi per coglierne la viva simpatia con maggiore prontezza di quanto avrebbero potuto comunicare le parole, cominciò. Osborne ci ha così delusi. Non riesco a farmene una ragione. E lo Squire era furibondo. Non voglio pensare a quanti soldi sono stati spesi oltre ai conti. Ci sono degli anticipi pagati da prestatori di denaro. Lo Squire ora non mi dimostra quanto sia arrabbiato perché teme un altro attacco, ma io so quanto è furioso. Vedi, ha speso molto per rivendicare quelle terre a Upton Common ed è lui stesso in difficoltà. Ma questa acquisizione avrebbe raddoppiato il valore della proprietà. Perciò noi non abbiamo pensato ad altro che ai benefici di cui Osborne avrebbe goduto in futuro. E adesso lo Squire dice che bisogna ipotecare parte della tenuta e non puoi sapere quanto questo gli faccia male al cuore. Ha venduto una parte consistente dei boschi per mandare i due ragazzi al college. Osborne, oh, che caro innocente figliolo era. Era l'erede, capisci? Ed era così intelligente. Tutti dicevano che sicuramente avrebbe ottenuto i voti più alti e l'incarico e non so che altro. E in effetti ha vinto una borsa di studio. Ma poi tutto è andato storto, non so perché. Ecco la cosa peggiore. Forse lo Squire ha scritto una lettera troppo arrabbiata e questo ha interrotto i rapporti. Ma lui avrebbe potuto confessarmelo. Penso l'avrebbe fatto Molly se fosse stato qui davanti a me. Ma lo Squire, nella sua indignazione, gli ha detto di non farsi vedere in questa casa finché non avrà ripagato i debiti che ha contratto oltre la sua rendita. 250 all'anno per ripagare più di 900 sterline, in un modo o nell'altro. E non poter tornare a casa fino ad allora. Forse anche Roger avrà dei debiti. Lui ha ricevuto solo 200 sterline, ma dopo tutto non è il primogenito. Lo Squire ha ordinato che si interrompano le opere di drenaggio e io non dormo la notte a pensare alle povere famiglie dei lavoranti con questo clima invernale. Ma cosa possiamo fare? Io non sono mai stata forte e forse sono stata stravagante nelle mie abitudini e c'erano tradizioni di famiglia in merito alle spese e alle rivendicazioni di queste terre. Oh, Molly, Osborne era un bambino così dolce, un ragazzo così amorevole e anche così intelligente. Ti ricordi che ti ho letto alcune delle sue poesie? Ora, come potrebbe una persona che scrive così commettere errori tanto enormi? Eppure, temo che lui l'abbia fatto. Non sapete proprio come sia stato speso quel denaro? Chiese Molly. No, per niente. È questo il tormento. Ci sono conti del sarto, conti del rilegatore, per il vino e per i quadri. Il tutto ammonta a 4.500. E sebbene queste spese siano incredibilmente ingenti, inspiegabili per gente semplice come noi, tuttavia potrebbe trattarsi solo di lussi tipici del giorno d'oggi. Ma il denaro per il quale lui non vuole dare giustificazione, del quale in realtà siamo venuti a sapere solo tramite gli amministratori londinesi, che hanno scoperto che alcuni avvocati poco raccomandabili stavano facendo delle indagini sul vincolo della proprietà. Oh, Molly, niente di peggio. Non so come fare a dirtelo. Indagini sull'età e sullo stato di salute dello Squire, il suo caro papà. Iniziò a singhiozzare quasi istericamente. Però vuole continuare a parlare, nonostante gli sforzi di Molly per farla smettere. Che l'ha tenuto fra le braccia, l'ha benedetto, anche prima che io gli dessi un bacio, e che ha pensato sempre tanto bene di lui, come suo erede e diletto primogenito. Quanto l'ha amato, quanto io l'ho amato. Recentemente ho talvolta pensato che abbiamo commesso un'ingiustizia nei confronti del buon Roger. No, sono sicura di no. Pensate solo a quanto vi vuol bene. Insomma, siete il suo primo pensiero. Magari non ne parla, ma chiunque potrebbe accorgersene. E cara Mrs. Hamley, disse Molly, decisa a dire tutto ciò che aveva in mente ora che aveva preso la parola. Non pensate che sarebbe meglio non giudicare male Mr. Osborne Hamley? Non sappiamo cosa abbia fatto del denaro. È così buono, non è vero, che potrebbe averne avuto bisogno per aiutare un povero, un commerciante, per esempio, oppresso dai creditori, oppure dimentichi, cara, La interruppe Mrs. Hamley, sorridendo un po' per l'impeto romantico della ragazza, ma sospirando subito dopo. Che tutti gli altri conti provengono da commercianti, quali si lamentano dolorosamente del denaro che non è stato loro pagato. Per un attimo Molly rimase perplessa, poi però riprese. Oserei dire che si sono approfittati di lui. Garantisco che ho sentito storie di giovani uomini che nelle grandi città sono caduti in preda dei negozianti, diventandone vittime regolari. Tu sei davvero un tesoro, mia cara, disse Mrs. Hamley, confortata dalla forte partigianeria di Molly, per quanto fosse irragionevole e basata sull'ignoranza. E inoltre, proseguì Molly, qualcuno sicuramente sta agendo contro Osborne, voglio dire, Mr. Osborne Hamley. A volte non posso fare a meno di chiamarlo Osborne, ma in verità penso sempre a lui come Mr. Osborne. Non importa, Molly, come lo chiami, ma continua a parlare. Mi sembra che mi faccia bene ascoltare qualcuno che prenda le parti della speranza. Lo squire è così ferito e dispiaciuto. Degli sconosciuti si sono aggirati nel circondario. Hanno fatto domanda agli affittuari, hanno bofonchiato sul recente abbassamento della qualità del legname, come se stessero facendo calcoli sulla morte dello squire. È proprio ciò di cui stavo parlando. Questo non dimostra che sono uomini malvagi, e degli uomini malvagi si sarebbero fatti scrupoli ad approfittare di lui a raccontare menzogne in suo nome, a rovinarlo. Non vedi? Invece che cattivo lo dipingi come un debole. Forse sì, ma io non penso che sia debole. Voi stessa sapete, cara Mrs. Hamley, quanto lui sia intelligente. E poi io preferirei che fosse debole piuttosto che malvagio. I deboli possono ritrovarsi d'un tratto pieni di forza in paradiso quando vedono le cose con chiarezza, ma non credo che cattivi si trasformeranno tutto d'un tratto in persone virtuose. Io credo di essere stata molto debole, Molly, disse Mrs. Hamley, accarezzandole i riccioli con affetto. Ho fatto del mio Osborne un idolo, e lui ha dimostrato di avere i piedi d'argilla, non abbastanza robusti da mantenersi saldo per terra, e questa, oltretutto, è la luce migliore sotto la quale considerare la sua condotta. Per la rabbia verso il figlio, per l'ansia a proposito della moglie, per la difficoltà di trovare rapidamente il denaro di cui c'era bisogno e per l'irritazione dovuta alle malcelate indagini da parte di estranei sul valore della sua proprietà, lo stato d'animo del povero squire era terribile. Era furioso e nervoso con chiunque gli si avvicinasse, e poi il proprio carattere aggressivo e le proprie parole ingiuste lo deprimevano. Gli anziani domestici, che forse lo ingannavano in tante piccole cose, furono straordinariamente pazienti con i suoi rimproveri. Essi potevano comprendere gli accessi passionali e proprio come lui conoscevano la causa dei suoi umori mutevoli. Il maggiordomo, abituato a discutere con il padrone su qualsiasi nuovo ordine a proposito del suo lavoro, diede di gomito a Molly a cena perché assaggiasse qualcosa dal piatto che aveva appena rifiutato e in seguito spiegò quel comportamento con queste parole. Vedete, signorina, io e la cuoca abbiamo preparato un pasto che potesse invogliare il padrone a mangiare, ma quando io vi porgo un piatto e voi dite no grazie, il padrone non lo guarda nemmeno. Ma se voi assaggiate qualcosa e mangiate di gusto, beh, il padrone prima aspetta, poi guarda, poi un po' alla volta annusa. Dopodiché scopre di aver fame e si mette a mangiare con la stessa naturalezza con cui un gatto inizia a miagolare. Ecco la ragione, signorina, per cui vi ho dato il gomito e vi ho strizzato l'occhio, che sono gesti inopportuni e nessuno lo sa meglio di me. Il nome di Osborne non veniva mai menzionato durante queste cene a tu per tu. Lo squire chiedeva Molly della gente di Hollingford, ma non sembrava badare granché alle sue risposte. Poi si abituò a domandarle ogni giorno come avesse trovato la moglie, ma se Molly diceva la verità, che la donna era sempre più debole, egli diventava quasi aggressivo con lei. Non riusciva a sopportarlo, non voleva sopportarlo, anzi, una volta fu quasi sul punto di cacciare via Mr. Gibson perché egli insisteva a volersi consultare con il dottor Nichols, l'esimio medico della contea. È assurdo pensare che sia così ammalata. Sapete che è solo la debolezza che ha da anni, e se non potete esserle d'aiuto in un caso così semplice, non ha dolori, è solo debolezza ai nervi. È un caso semplice, eh? Signore, non fate quella faccia perplessa. È meglio che la lasciate del tutto. La porterò a Bath o a Brighton o da qualche altra parte per cambiare, perché secondo me sono solo i nervi e la depressione. Ma il viso florido e franco dello squire era teso per l'angoscia ed esausto per lo sforzo di rimanere sordo ai passi del destino, mentre pronunciava parole che mascheravano le sue paure. Mr. Gibson replicò con molta calma. «Continuerò a venire a visitarla e so che voi non me lo proibirete. ma la prossima volta porterò con me il dottor Nichols. Può darsi che le mie terapie siano inadatte e prego Dio che gli dica che mi sbaglio a essere così preoccupato. Non parlatemi delle vostre preoccupazioni, non lo sopporto, urlò lo squire. Ovvio che dobbiamo morire tutti e anche lei, ma neanche il più abile medico d'Inghilterra potrà parlare con freddezza della vita di una come lei. Oso dire che morirò prima io, spero di morire prima io, ma tirerò un pugno a chiunque mi dica che la morte risiede dentro di me. Inoltre penso che tutti i dottori siano ciarlatani, ignoranti, che fingono una conoscenza che non possiedono. Sì, sorridete pure, non mi interessa, a meno che non mi diciate che io morirò prima, né io né il vostro dottor Nichols potrete entrare in questa casa a predire malanni e a fare profezie. Mr. Gibson se ne andò, con il cuore pesante al pensiero dell'imminente dipartita di Mrs. Hamley, ma senza curarsi più di tanto delle parole dello squire. Infatti le aveva quasi dimenticate quando quella sera intorno alle 9 uno stalliere arrivò per di fiato da Hamley Hall, portando un biglietto da parte dello squire. Caro Gibson, per l'amor di Dio perdonatemi se oggi sono stato scortese. È molto peggiorata. Venite, passate la notte qui. Scrivete a Nichols, a tutti i medici che volete. Scrivete prima di partire per venire qui. Potrebbero farla sentire meglio. Quando ero giovane si parlava spesso dei dottori di Whitworth che curavano i pazienti abbandonati dai medici regolari. Non potete far venire uno di loro? Mi metto nelle vostre mani. A volte penso che siamo al punto di svolta e che dopo questo attacco lei si riprenderà. Confido totalmente in voi, per sempre vostro. Hamley, PS, Molly è un tesoro. Che Dio mi aiuti. Naturalmente, Mr. Gibson andò e per la prima volta dal giorno delle nozze tagliò corto con le querimonie della moglie, che si lamentava di aver unito la propria vita a quella di un medico convocato fuori casa tutte le ore del giorno e della notte. Il dottore aiutò Mrs. Hamley a riprendersi da quell'attacco e per un paio di giorni lo spavento e la gratitudine dello squire lo resero docile nelle mani di Mr. Gibson. Poi egli tornò a pensare che si fosse trattato di una crisi che la moglie aveva superato, prendendo ormai la via della guarigione. Ma il giorno successivo al consulto con il dottor Nichols, Mr. Gibson disse a Molly: Molly, ho scritto a Osborne e a Roger. Conosci l'indirizzo di Osborne? No, papà, è caduto in disgrazia. Non so neanche se lo squire lo conosca. E lei è stata troppo male per scrivere. Non importa. La legherò a quella per Roger. Nonostante ciò che quei ragazzi significano per gli altri, c'è un fortissimo amore fraterno fra loro. Roger saprà cosa fare. E Molly, senz'altro torneranno a casa non appena leggeranno il mio resoconto sulle condizioni della madre. Vorrei che dicesse lo squire cosa ho fatto. Non è un compito piacevole e a modo mio io lo comunicherò alla signora. Gliel'avrei detto se fosse stato in casa, ma vedi, è stato costretto ad andare ad Ashcombe per degli affari. Costretto a viva forza. Le è tanto dispiaciuto non poterti incontrare. Ma papà, come si arrabbierà. Non sai quanto è furioso con Osborne. Quando gli riferì il messaggio di suo padre, Molly temeva l'ira dello squire. Era stata testimone a sufficienza dei rapporti familiari degli Hamley per sapere che dietro la cortesia d'altri tempi e la piacevole ospitalità che lui gli dimostrava c'erano una volontà tenace, un carattere violento e passionale, uniti a una certa ostinazione nei pregiudizi, opinioni, le chiamava lui, che è comune a coloro che né in gioventù né nella maturità si sono relazionati di frequente con la loro classe sociale. Giorno dopo giorno, ella aveva ascoltato i mormorii addolorati di Mrs. Hamley a proposito della profonda disgrazia in cui Osborne era stato precipitato dal padre, il divieto di tornare a casa, e quasi non sapeva da che parte cominciare per comunicargli che la lettera che convocava Osborne a Hamley era già stata spedita. Le loro cene erano solitarie. Lo squire tentava di renderle gradevoli a Molly, poiché le era fortemente grato per la consolazione e il conforto che lei offriva a sua moglie. Parlava con allegria, che poi sprofondava nel silenzio, ed entrambi allora dimenticavano di sorridere. Egli ordinò vini preziosi, che a lei non facevano alcuna impressione, ma li assaggiava per compiacerlo. Egli notò che un giorno lei aveva mangiato delle pere brune e beurrée, e che sembravano esserle piaciute, e poiché i suoi alberi quell'anno non ne avevano prodotte in gran quantità, ordinò che quella particolare varietà fosse cercata nel vicinato. Molly capiva che egli era pieno di buone intenzioni nei suoi riguardi, ma questo non diminuiva il suo terrore di toccare quell'unico punto dolente per la famiglia. Però andava fatto e senza ulteriori indugi. Il ceppo grande fu posto sul fuoco dopo cena, il focolare spazzato, le sontuose candele spente e la porta chiusa, e Molly e lo squire furono lasciati al loro dessert. Lei sedeva al lato del tavolo, al suo vecchio posto. Quella capotavola era vuoto, però, giacché non erano state date diverse indicazioni, il piatto, i bicchieri e il tovagliolo erano disposti regolarmente con metodo, come se Mrs. Hamley scendesse a cena come al solito. Per la verità, a volte, quando la porta dalla quale lei era solita entrare si apriva per un qualche motivo, Molly si ritrovava a guardarsi intorno come aspettandosi di vedere la figura alta e languida avvolta negli eleganti drappi di ricca seta e di morbido pizzo che Mrs. Hamley usava indossare la sera. Quella sera un singolare e doloroso pensiero colpì Molly. In quella stanza la signora non sarebbe entrata mai più. La ragazza aveva deciso di comunicare il messaggio di suo padre proprio in quel momento, ma qualcosa nella gola la soffocò ed ella non riuscì quasi a controllare la voce. Lo squire si alzò e si avvicinò all'ampio camino per colpire il centro del ceppo grande, rompendolo in ciocchi fiammanti e luccicanti di scintille. La sua schiena era rivolta verso di lei. Molly cominciò. Quando oggi papà è stato qui, mi ha chiesto di dirvi che ha scritto a Mr. Roger Hamley per comunicargli che pensava fosse meglio tornasse a casa. E ha incluso una lettera per Mr. Osborne Hamley, contenente lo stesso messaggio. Lo squire posò all'attizzatoio, ma continuò a voltare le spalle a Molly. Ha mandato a chiamare Osborne e Roger? Chiese alla fine. Molly rispose sì. Ci fu allora un silenzio di morte, che Molly credette non finisse mai. Lo squire aveva posato entrambe le mani sull'alta mensola del caminetto ed era chinato sul focolare. Roger sarebbe tornato da Cambridge il 18 e ha fatto chiamare anche Osborne. Lo sapeva, proseguì girandosi verso Molly con nello sguardo e nella voce la ferocia che lei si era aspettata. Un momento dopo la sua voce cedette. È giusto, assolutamente giusto. Capisco. Ci siamo alla fine. Andiamo, andiamo. Osborne ha causato tutto, con un rinnovato accesso di rabbia nei suoi toni. Lei avrebbe potuto, una parola che Molly non udì, pensò suonasse come resistere, se non fosse stato per tutto questo. Non posso perdonarlo, non posso. E all'improvviso lasciò la stanza, mentre Molly stava lì seduta immobile, afflitta dalla compassione che provava per tutti loro. L'uomo fece di nuovo capolino. Vai da lei, mia cara. Io non posso, non adesso, ma presto ci andrò. Solo un attimo e poi non perderò un solo momento. Sei una brava ragazza, che Dio ti benedica. Non si deve supporre che Molly fosse rimasta a Hamley Hall per tutto quel tempo senza interruzioni. Un paio di volte al padre era stato ingiunto di riportarla a casa. Molly pensava di notare che lui lo facesse malvolentieri e in effetti era Mrs. Gibson che la mandava a chiamare, quasi come per preservare in quel modo un diritto di proprietà. Domani o il giorno dopo verrai a casa, aveva annunciato il padre. La mamma sembra credere che la gente potrebbe farsi cattive idee sul fatto che tu stia lontano così spesso e così poco tempo dopo le nozze. Oh, papà, temo che Mrs. Hamley sentirà la mia mancanza. Mi piace tanto stare con lei. Non ritengo probabile che la sentirà più di un mese o due fa. Ora dorme, così tanto da essere quasi inconsapevole dello scorrere del tempo. Farò in modo che tu possa essere di nuovo qui tra un paio di giorni. Così, dal silenzio e dalla dolce malinconia di Hamley Hall, Molly tornò alle chiacchiere diffuse e pettegolezze di Hollingford. Mrs. Gibson l'accolse piuttosto gentilmente. Una volta aveva un nuovo ed elegante cappellino invernale da regalarle, ma non le interessava ascoltar niente che riguardasse gli amici che Molly aveva appena lasciato. E le sue scarse osservazioni sullo stato delle cose a Hamley Hall urtarono terribilmente i sentimenti di Molly. Come resiste a lungo? Il tuo papà non avrebbe mai pensato che dopo quell'attacco potesse sopravvivere neanche la metà di così. Deve essere molto faticoso per tutti loro. Dichiaro che tu sei proprio un'altra creatura da quando sei andata lì. Si può solo desiderare che non duri ancora molto, per il loro bene. Non sapete quanto lo Square dia valore a ogni minuto, replicò Molly. Beh, dice che dorme tantissimo, che non parla molto quando è sveglia e che per lei non c'è la minima speranza. Però in momenti come questo le veglie e le attese tengono le persone sulle spine. Lo so, per via del mio caro Kirkpatrick. C'erano giorni in cui pensavo davvero che non sarebbe mai finita. Ma non parliamo più di queste cose tristi. Ne hai avuto abbastanza, ne sono certa, e sentire di malattie e di morte mi rende sempre malinconica. E tuttavia il tuo papà a volte sembra non saper parlare d'altro. Stasera ti porterò fuori, però, così ti godrai un po' di cambiamento. Ho chiesto a Miss Rosa di accorciare uno dei miei vecchi abiti per te, a me va stretto. Si parla di un ballo, a casa di Mrs. Edwards. Oh, mamma, non ci posso andare! Esclamò Molly. Sono stata così a lungo con lei. E lei forse sta soffrendo molto, forse sta morendo. E che io possa danzare! Sciocchezze! Non sei una parente, perciò non devi prendertela così a cuore. Non insisterei se ci fosse una possibilità che lei venisse a saperlo e se ne offendesse. Ma per come stanno le cose, è deciso che tu vada. E non diciamo altre stupidaggini in proposito. Se non dovessimo far nulla mentre la gente muore, passeremo tutta l'esistenza a girarci pollici e ripetere filastrocche. Non ci posso andare, ribadì Molly. E agendo d'impulso, quasi con propria sorpresa, si appellò al padre, che stava entrando nella stanza proprio in quel momento. Egli contrasse le sopracciglia scure e parve infastidito mentre sia la moglie che la figlia gli riversavano nelle orecchie i loro opposti punti di vista. Sedette nella disperazione della pazienza. Quando venne il suo turno di esprimere una decisione, gli disse: Suppongo di poter avere qualcosa per pranzo. Sono uscito alle 6 stamattina e in sala non c'è niente. Devo andare via di nuovo immediatamente. Molly sfrecciò verso la porta. Mrs. Gibson si affrettò a suonare il campanello. Dove stai andando, Molly? Chiese tagliente. Solo a occuparmi del pranzo di papà. Ci sono i domestici per questo. Non mi piace che entri in cucina. Vieni, Molly. Siediti e fa silenzio. Ordinò il padre. Uno torna a casa in cerca di pace, di quiete, di cibo anche. Se Papo Drego non avvenga mai più, dispongo che stasera Molly rimanga a casa. Tornerò tardi e stanco. Occhetta, vedi di farmi trovare qualcosa di pronto da mangiare e poi io mi vestirò di tutto punto e verrò a prenderti, mia cara. Vorrei che tutti questi festeggiamenti in onore del matrimonio si concludessero. È pronto? Allora andiamo in sala da pranzo, così potrò rimpinzarmi. Un dottore dovrebbe essere in grado di mangiare come un cammello o come il maggiore Dalgan Dalgety. Fu un bene per Molly che proprio in quel momento giungessero degli ospiti perché Mrs. Gibson era molto irritata. Costoro riportarono delle notizie locali che le riempirono la mente e Molly scoprì che se solo avesse espresso un sufficiente stupore per il fidanzamento del quale erano state informate dai visitatori appena andati via, la discussione precedente sulla necessità di accompagnare la matrigna sarebbe stata completamente dimenticata. Beh, non completamente. La mattina dopo, infatti, ella dovette ascoltare un brillante e dettagliato resoconto del ballo e dei divertimenti che si era persa, e Mrs. Gibson le comunicò anche di aver cambiato idea a proposito di darle il suo abito, poiché ora pensava che l'avrebbe tenuta da parte per Cinzia se fosse stata a lungo abbastanza. Ma Cinzia era così alta, era quasi cresciuta troppo effettivamente. Dopotutto sembravano esserci le stesse probabilità che Molly ottenesse il vestito oppure no. Capitolo 18. Il segreto di Osborne. Osborne e Roger tornarono a Hamley Hall. Quando rientrò dalla sua assenza, Molly trovò Roger già sistemato in casa e apprese che Osborne stava per arrivare. Poco altro fu detto su di lui. Ora lo squire non lasciava quasi più la stanza della moglie, sedeva accanto a lei, la vegliava e di quando in quando gemeva tra sé. La donna era talmente obnubilata dagli oppiacei da non svegliarsi più con frequenza, ma quando lo faceva mandava quasi costantemente a chiamare Molly. Nei loro rari tête-à-tête ella chiedeva anche di Osborne, dov'era, era stato avvertito, stava arrivando. Nonostante il suo stato mentale fosse confuso e fragile, sembrava aver mantenuto due forti impressioni. Una, la simpatia con cui Molly aveva accolto le sue confidenze a proposito di Osborne. L'altra, la rabbia che il marito conservava verso di lui. Davanti allo square non nominava mai il figlio, né pareva a suo agio ad affrontare l'argomento con Roger, mentre invece, quando era sola con Molly, quasi non parlava d'altro. Doveva esserle balenata l'idea peregrina che Roger biasimasse il fratello e al contrario ricordava la zelante apologia di Molly, che quando era stata pronunciata, ella aveva considerato disperatamente improbabile. In ogni caso, La donna elesse la ragazza propria confidente per quanto concerneva il primogenito. La mandò a domandare a Roger quando egli sarebbe arrivato e sembrava sapere con certezza che questo sarebbe avvenuto. Riportami tutto ciò che Roger dice, a te lo rivelerà. Ma passarono diversi giorni prima che Molly potesse porre a Roger delle domande e nel frattempo le condizioni di Mrs. Hamley erano considerevolmente mutate. Finalmente Molly si avvicinò a Roger mentre lui sedeva in biblioteca con il viso sepolto fra le mani. Egli non udì i suoi passi finché lei non gli fu accanto. Allora il giovane alzò il volto rosso e segnato dalle lacrime, con i capelli arruffati in disordine. Volevo vedervi da solo, cominciò lei. Vostra madre desidera tanto avere notizie di vostro fratello Osborne. La settimana scorsa mi ha pregata di chiedere a voi, ma non volevo nominarlo di fronte a vostro padre. Con me non l'ha quasi mai menzionato. Non so perché. Con me parlava di lui continuamente. L'ho vista così poco questa settimana e penso che ora abbia dimenticato molte cose. Eppure, se non vi dispiace, vorrei poterle dire qualcosa se me lo chiede di nuovo. La sua testa ricadde fra le mani ed egli non le rispose per un po' di tempo. Cosa vuole sapere? Domandò finalmente. Sa che Osborne arriverà presto, da un momento all'altro? Sì, ma vuole sapere esattamente dove si trovi. Non sono in grado di dirlo. Non lo so con certezza. Immagino sia all'estero, ma non ne sono sicuro. Ma gli avete spedito la lettera di papà? L'ho mandata a un suo amico, che sa meglio di me dove possa trovarsi. Dovete sapere che non si è liberato dei creditori, Molly. Non avete potuto essere un membro di questa famiglia, quasi una figlia in questa casa, senza esserne al corrente. Per questa e per altre ragioni io non sono a conoscenza esattamente di dove si trovi. Le dirò così. Siete certo che verrà? Sì, ma Molly, io penso che mia madre vivrà ancora un po' e voi? Il dottor Nichols ha detto così ieri quando era qui con vostro padre. Ha detto che si è ripresa meglio di quanto si potesse aspettare. Voi non temete un cambiamento o è questo che vi rende così ansiosi in merito all'arrivo di Osborne? No, lo chiedo solo per lei. Sembrava desiderare così ardentemente di avere sue notizie. Penso l'abbia sognato. E poi quando si è svegliata è stato per lei un sollievo parlarmene. Sembra sempre che mi associ a lui. Ne abbiamo conversato a lungo quando eravamo insieme. Non so cosa avremmo fatto, cosa ciascuno di noi avrebbe fatto senza di voi. Siete stata come una figlia per mia madre. Le voglio tanto bene, disse Molly teneramente. Sì, lo vedo. Avete mai notato che talvolta vi chiama Fanny? È il nome della nostra sorellina morta. Penso che spesso vi confonda con lei. È un po' questo il motivo, e in parte perché in un momento come questo le formalità sono insopportabili. Per cui vi ho chiamata Molly. Spero non vi dispiaccia. No, mi sta bene. Ma non volete dirmi qualcosa in più su vostro fratello? Lei è davvero ansiosa di sapere. Meglio che lo chieda direttamente a me. Ma no, sono talmente legata a un vicolo di segretezza, Molly, che non potrei darle soddisfazione se iniziasse a farmi delle domande. Immagino si trovi in Belgio, che si sia recato lì 15 giorni fa, anche per evitare i suoi creditori. Sapete che mio padre si è rifiutato di pagare i suoi debiti? Sì, perlomeno ho saputo qualcosa del genere. Non credo che mio padre potesse raccogliere il denaro tutto in una volta senza ricorrere a espedienti dei quali si sarebbe estremamente pentito. Ma per il momento questo mette Osborne in una posizione molto difficile. Io penso che ciò che turba molto vostro padre sia il mistero relativo al modo in cui il denaro è stato speso. Se mia madre dovesse mai far riferimento a questo aspetto della questione, fece Roger di scatto, rassicuratela da parte mia che non si tratta di nulla che sia vizioso o dannoso. Non posso dire altro, sono vincolato, ma rinfrancatela a questo proposito. Non sono certa che ricordi tutta la sua dolorosa ansia in merito, ribatté Molly. Prima che arrivaste era solita parlarmi a lungo di lui, quando vostro padre pareva così arrabbiato. E ora, ogni volta che mi vede, vuole riprendere il vecchio argomento, ma le sue memorie non sono chiare. Se dovesse rivederlo, non credo ricorderebbe il motivo per cui era così preoccupata per lui quando non c'era. Sarà presto qui. Lo aspetto da un giorno all'altro, disse Roger agitato. Pensate che vostro padre sarà molto adirato con lui? Chiese Molly timidamente, come se il rincrescimento dello Squire fosse indirizzato a lei. Non so, rispose Roger. La malattia di mia madre potrebbe cambiarlo, ma in passato non ci ha mai perdonati facilmente. Mi ricordo che una volta... Ma questo non c'entra. Non posso fare a meno di pensare che lui si sia sottoposto a un forte autocontrollo per amore di mia madre e che non vorrà esprimersi. Ma questo non significa che dimenticherà. Mio padre è un uomo di pochi affetti, ma quelli che nutre sono potenti. Qualsiasi cosa lo tocchi nei suoi sentimenti ha un effetto profondo e permanente su di lui. Quella disgraziata stima della proprietà. Ha messo in testa a mio padre l'idea dei post-hobby. Cosa sono? Chiese Molly. Si tratta di procurarsi del denaro che sarà poi ripagato alla morte di mio padre, il che naturalmente implica il calcolo di quanto gli resta da vivere. Ma è terribile, commentò lei. Sono sicuro, come lo sono della mia vita stessa, che Osborne non ha fatto niente del genere. Ma mio padre ha espresso i suoi sospetti con un linguaggio che ha irritato Osborne. Eppure lui non parla, non si giustifica, non lo farebbe neanche se potesse. E per quanto mi voglia bene, io ho scarsa influenza su di lui, altrimenti avrebbe rivelato tutto a mio padre. Beh, dobbiamo lasciare tempo al tempo, aggiunse sospirando. Mia madre avrebbe rimesso tutto a posto se fosse stata ciò che era in passato. Si voltò, lasciando Molly molto triste. Ella sapeva che ogni membro della famiglia alla quale era tanto affezionata viveva un turbamento, dal quale non vedeva via d'uscita, e la sua limitata capacità di essere loro d'aiuto diminuiva giorno dopo giorno, mentre Mrs. Hamley sprofondava sempre più sotto l'effetto degli oppiacei e dell'incoscienza. Suo padre le aveva detto proprio quel giorno che era auspicabile che lei tornasse a casa una volta per tutte. Mrs. Gibson aveva bisogno di lei, per nessuna ragione in particolare, ma per molti piccoli frammenti di ragione. Mrs. Hamley aveva smesso di desiderarla accanto a sé perché solo occasionalmente si ricordava della sua esistenza. La sua posizione, pensava suo padre, l'idea non era entrata nella testa di Molly, in una famiglia in cui l'unica donna era un'invalida confinata a letto, stava diventando imbarazzante. Ma Molly aveva pregato con insistenza di poter rimanere altri 2 o 3 giorni solamente, solo fino al venerdì. Se Mrs. Hamley avesse chiesto di lei, ragionò con le lacrime agli occhi, e avesse saputo che se n'era andata l'avrebbe reputata così crudele, così ingrata. «Mia cara bambina, è passato il momento in cui possa aver bisogno di qualcuno. La forza dei sentimenti terreni è sopita. Papà, questa è la cosa peggiore, non la sopporto, non ci credo. Magari non chiederà più di me e magari mi ha dimenticata». Ma sono sicura, fino all'ultimo, che se le medicine non la intorpidiscono, si guarderà intorno in cerca dello Squire e dei suoi figli, soprattutto del povero Osborne, perché lui sta soffrendo. Mr. Gibson scosse il capo, ma non rispose. Dopo un paio di minuti le chiese: «Non mi va di portarti via mentre ancora pensi di essere di utilità o di conforto per una persona che è stata tanto gentile con te. Ma se non avrà chiesto di te prima di venerdì, ti convincerai e tornerai a casa di tua volontà? E se ci torno, posso rivederla ancora una volta, anche se lei non chiedesse di me?» ribatté Molly. «Sì, certo, non devi far rumore, neanche un passo, ma puoi entrare a vederla. Te lo devo dire, sono quasi sicuro che non farà il tuo nome». «Ma potrebbe, papà, tornerò a casa venerdì se non accadrà». «Ma penso che lo farà». Dunque Molly rimase a ciondolare in casa, tentando di fare tutto ciò che poteva fuori dalla stanza della malata per il conforto dei familiari. Essi uscivano solo per i pasti o per impegni improrogabili e trovavano poco tempo per parlare con lei. Così la sua vita era piuttosto solitaria, spesa nell'attesa di una chiamata che non venne mai. La sera del giorno in cui aveva avuto con Roger la conversazione riportata, Osborne arrivò. Entrò direttamente in soggiorno, dove Molly era seduta sul tappeto a leggere vicino al fuoco, perché non le piaceva chiedere l'accensione delle candele solo per sé. Osborne fece il suo ingresso con una sorta di fretta che dava quasi l'impressione che sarebbe inciampato e caduto. Molly si alzò. Egli non l'aveva ancora notato subito, ma ora le venne incontro, le prese entrambe le mani, la condusse verso la luce tremolante e strizzò gli occhi per guardarla in viso. «Come sta? Voi me lo direte? Voi dovete conoscere la verità. Ho viaggiato notte e giorno da quando ho ricevuto la lettera di vostro padre. Prima che lei potesse articolare una risposta, egli si era seduto sulla sedia più vicina, coprendosi gli occhi con la mano. «È molto malata», disse Molly. «Questo lo sapete, ma non credo senta dolore. Ha chiesto spesso di voi». Egli gemette forte. «Mio padre mi ha impedito di tornare». «Lo so», disse Molly, ansiosa di frenare il suo senso di colpa. «Anche vostro fratello era lontano. Penso che nessuno sapesse quanto lei stesse male. È stata invalida per così tanto tempo. Voi sapete, sì? Vi ha raccontato tante cose. Mi voleva tanto bene. E Dio sa quanto io l'amassi. Se non mi fosse stato proibito di tornare a casa, le avrei rivelato tutto. Mio padre è al corrente del mio arrivo. Sì, rispose Molly. Gli ho fatto sapere che papà vi aveva convocato. Proprio in quel momento entrò lo squire. Non aveva udito l'arrivo di Osborne e stava cercando Molly per chiederle di scrivere una lettera per lui.